Terzo anello ad alta voce. Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Hai ragione, diceva Angelica a Concetto mentre si dirigevano allacciate verso il salotto. Hai ragione, ma con queste feste imminenti per il cinquantenario dei mille non c'è più pace. 3 giorni fa figurati che mi comunicano di avermi chiamato a far parte del comitato di onore. Un omaggio alla memoria del nostro Tancredi, certo, ma quanto da fare per me. Pensare all'alloggio dei superstiti che verranno da ogni parte d'Italia, disporre gli inviti per le tribune senza offendere nessuno, premurarsi a far aderire tutti i sindaci dei comuni dell'isola. A proposito, cara, il sindaco di Salina è un clericale ed ha rifiutato di prender parte alla sfilata. Così ho pensato subito a tuo nipote, a Fabrizio. Era venuto a farmi vista e tac, io l'ho acchiappato. Non ha potuto dirmi di no e così alla fine del mese lo vedremo sfilare in Palamidone per Via Libertà davanti a un bel cartello con tanto di Salina a lettere di scatola. Non ti sembra un bel colpo? Un Salina renderà omaggio a Garibaldi. Sarà una fusione della vecchia e della nuova Sicilia. Ho pensato anche a te, cara. Ecco il tuo invito per la tribuna di onore, proprio alla destra di quella reale. E trasse fuori dalla borsetta parigina un cartoncino rosso garibaldino, dell'identico colore della fascetta di seta che Tancredi per qualche tempo aveva portato al di sopra del colletto. Carolina e Caterina saranno scontente, continuò a dire in modo del tutto arbitrario, ma potevo disporre di un solo posto, del resto tu ne hai più diritto di loro. Eri tu la cugina preferita del nostro Tancredi. Parlava molto e parlava bene. 40 anni di vita in comune con Tancredi, coabitazione tempestosa e interrotta ma lunga a sufficienza, avevano cancellato da tempo fin le ultime tracce dell'accento e delle maniere di donna fugata. «Ma che testa ho, cara! Dimenticavo di dirti che fra poco verrà qui il senatore Tassoni, è mio ospite a Villa Falconeri e desidera conoscerti. Era un grande amico del povero Tancredi, un suo compagno d'arme anche, e pare che abbia sentito parlare di te da lui. Caro il nostro Tancredi». Il fazzoletto col sottile bordino nero uscì dalla borsetta, asciugò una lacrima dagli occhi ancor belli. Concetta aveva sempre intercalato qualche frase nel ronzio continuo della voce di Angelica. Al nome di Tassoni però tacque. Rivedeva la scena, lontanissima ma chiara, come ciò che si scorge attraverso un cannocchiale rovesciato. La grande tavola bianca, circondata da tutti quei morti. Tancredi vicino a lei, scomparso adesso anch'egli, come del resto essa stessa di fatto era morta. Il racconto brutale, il riso isterico di Angelica, le proprie non meno isteriche lacrime. Era stata la svolta della sua vita quella. La strada imboccata allora l'aveva condotta fin qui, fino a questo deserto che non era neppure abitato dall'amore estinto e dal rancore spento. Ho saputo delle seccature che hai con la curia. Quanto sono noiosi! Ma perché non me l'hai fatto sapere prima? Qualcosa avrei potuto fare. Il cardinale ha dei riguardi per me. Ho paura che adesso sia troppo tardi, ma lavorerò nelle quinte. Del resto non sarà nulla. Il senatore Tassoni, che giunse presto, era un vispo elegantissimo vecchietto. Signorina, andava dicendo a Concetta mentre sedeva accanto a lei su di uno sgabellino basso adatto per un paggio e che appunto per questo aveva scelto. Signorina, si realizza adesso un sogno della mia gioventù lontanissima. Quante volte nelle gelide notti di bivacco sul Volturno o attorno agli spalti di Gaeta assediata, quante volte il nostro indimenticabile Tancredi mi ha parlato di lei. Mi sembrava di conoscere la sua persona, di aver frequentato questa casa fra le cui mura la sua giovinezza indomita trascorse. Sono felice di poter, benché con tanto ritardo, deporre il mio omaggio ai piedi di chi fu la consolatrice di uno dei più puri eroi del nostro riscatto. Concetta era poco avvezza alla conversazione con persone che non conoscesse fin dall'infanzia. Era anche poco amante di letture, quindi non aveva avuto modo di immunizzarsi contro la retorica ed anzi ne subiva il fascino sino a diventarne succube. Si commosse alle parole del senatore, dimenticò il semicentenario aneddoto guerresco, non vide più in Tassoni il violatore di convento, il beffeggiatore di povere religiose spaventate, ma un vecchio, un sincero amico di Tancredi che parlava di lui con affetto, che recava a lei, ombra, un messaggio del morto trasmesso attraverso quegli acquitrini del tempo che gli scomparsi possono tanto di rado guadare. «E che cosa le diceva di me, il mio caro cugino?» chiese a mezza voce con una timidezza che faceva rivivere la diciottenne in quell'ammasso di seta nera e di capelli bianchi. «Ah, molte cose! Parlava di lei quasi quanto parlasse di donna Angelica. Questa era per lui l'amore. Lei invece era l'immagine dell'adolescenza soave, di quell'adolescenza che per noi soldati passa tanto in fretta. Si figuri che mi raccontò come una sera, durante un pranzo a donna Fugata, si fosse permesso di inventare una frottola e di raccontarla a lei. Una frottola guerresca in relazione ai combattimenti di Palermo, nella quale figuravo anche io. E come lei lo avesse creduto e si fosse offesa perché il fatterello narrato era un po' audace, secondo l'opinione di 50 anni fa. Lei lo aveva rimproverato. Era tanto cara, diceva, mentre mi fissava con i suoi occhi incolleriti e mentre le labbra si gonfiavano graziosamente per l'ira, come quelle di un cucciolo. Era tanto cara che se non mi fossi trattenuto l'avrei abbracciata lì davanti a 20 persone e dal mio terribile zione. Lei, signorina, lo avrà dimenticato, ma Tancredi se ne ricordava bene. Tanta delicatezza vi era nel suo cuore. Se ne ricordava anche perché il misfatto lo aveva commesso proprio il giorno nel quale aveva incontrato donna Angelica per la prima volta. La conversazione continuò per qualche tempo, ma non può dirsi che Concetta vi prendesse gran parte. L'improvvisa rivelazione penetrò nella sua mente con lentezza e dapprima non la fece troppo soffrire. Ma quando congedatisi e andati via i visitatori, essa rimase sola, cominciò a veder più chiaro e quindi a patire di più. Gli spettri del passato erano esorcizzati da anni. Si trovavano naturalmente nascosti in tutto ed erano essi che conferivano amarezza al cibo, tedio alle compagnie, ma il loro volto vero non si era già da molto tempo mostrato. Adesso saltava fuori, avvolto nella funebre comicità dei guai irreparabili. Certo, sarebbe assurdo dire che Concetta amasse ancora Tancredi. La eternità amorosa dura pochi anni e non 50. Ma come una persona da 50 anni guarita dal vaiolo ne porta ancora le macchie sul volto, benché possa aver dimenticato il tormento del male, essa recava nella propria oppressa vita attuale le cicatrici della propria delusione, ormai quasi storica. Storica a tal punto, anzi, che se ne celebrava ufficialmente il cinquantenario. Ma fino ad oggi, quando essa raramente ripensava a quanto era avvenuta a donna Fugata in quell'estate lontana, si sentiva sostenuta da un senso di martirio subito, di torto patito, dall'animosità contro il padre che la aveva sacrificata, da uno struggente sentimento riguardo a quell'altro morto. Questi sentimenti derivati che avevano costituito lo scheletro di tutto il suo modo di pensare si disfacevano anch'essi. Non vi erano stati nemici, ma una sola avversaria, essa stessa. Il suo avvenire era stato ucciso dalla propria imprudenza, dall'impeto rabbioso dei Salina. Le veniva meno adesso, proprio nel momento in cui dopo decenni i ricordi ritornavano a farsi vivi, la consolazione di poter attribuire ad altri la propria infelicità. Consolazione che è l'ultimo e ingannevole filtro dei disperati. Thank you. Le tre sorelle Salina, come sappiamo, erano fondamentalmente offese dall'ispezione alla loro cappella, ma anime infantili e dopo tutto femminili come erano, ne pregustavano anche le soddisfazioni marginali ma innegabili, quella di ricevere in casa loro un principe della chiesa, quella di poter mostrargli il fasto di casa Salina che esse in buona fede credevano ancora intatto, ed innanzitutto quella di poter per mezz'ora vedere aggirarsi in casa loro una specie di sontuoso volatile rosso e di poter ammirare i toni vari ed armonizzati delle sue diverse porpore e l'amarezzatura delle pesantissime sete. Le poverette, però, erano destinate a rimanere deluse anche in questa ultima modesta speranza. Quando esse, discese al basso della scala esterna, videro uscire dalla vettura Sua Eminenza, dovettero constatare che essa si era posta in piccola tenuta. Sulla severa tonaca nera, soltanto i minuscoli bottoncini purpurei stavano ad indicare il suo altissimo rango. Malgrado il volto di oltraggiata bontà, il cardinale non aveva maggiore imponenza dell'arciprete di Donna Fugata. Fu cortese ma freddo, e con troppa sapiente mistura seppe mostrare il proprio rispetto per casa Salina e le virtù individuali delle signorine, unito al proprio disprezzo per la loro inettitudine e formalistica devozione. Non rispose parola alle esclamazioni di Monsignor Vicario sulla bellezza dell'arredamento dei salotti che attraversarono. Rifiutò di accettare che sia del sontuoso rinfresco preparato. «Grazie, signorina, soltanto un po' di acqua. Oggi è la vigilia della festa del mio santo patrono». Non si sedette neppure. Andò in cappella, si genuflesse un attimo dinanzi alla Madonna di Pompei, ispezionò di sfuggita le reliquie. Però benedisse con pastorale mansuetudine le padrone di casa e la servitù inginocchiate in sala d'ingresso. E dopo, signorina, disse a Concetta, che aveva sul volto i segni di una notte insonne, per 3 o 4 giorni non si potrà celebrare nella cappella il servizio divino, ma sarà mia cura di far provvedere prestissimo alla riconsacrazione. A mio parere l'immagine della Madonna di Pompei occuperà degnamente il posto del quadro che è al di sopra dell'altare, il quale, del resto, potrà unirsi alle belle opere d'arte che ho ammirato attraversando i vostri salotti. In quanto alle reliquie, lascio qui Don Pacchiotti, mio segretario e sacerdote competentissimo. Egli esaminerà i documenti e comunicherà a loro i risultati delle sue ricerche. E quanto deciderà sarà come se lo avessi deciso io stesso. Da tutti si lasciò benignamente baciare l'anello e, pesante, salì in vettura insieme al piccolo seguito. Concetta si ritirò nella sua stanza. Non provava assolutamente alcuna sensazione. Le sembrava di vivere in un mondo noto ma estraneo, che già avesse ceduto tutti gli impulsi che poteva dare e che consistesse ormai di pure forme. Il ritratto del padre non era che alcuni centimetri quadrati di tela, le casse verdi, alcuni metri cubi di legno. Dopo un po' le portarono una lettera. La busta era listata a nero con una grossa corona in rilievo. «Carissima Concetta, ho saputo della visita di Sua Eminenza e sono lieta che alcune reliquie si siano potute salvare. Spero di ottenere che Monsignor Vicario venga a celebrare la prima messa nella cappella riconsacrata. Il senatore Tassoni parte domani e si raccomanda al tuo bon souvenir. Io verrò presto a vederti e intanto ti abbraccio con affetto insieme a Carolina e Caterina, tua Angelica». Continuò a non sentir niente. Il vuoto interiore era completo. Soltanto dal mucchietto di pelliccia esalava una nebbia di malessere. Questa era la pena di oggi. Financo il povero Bendicò insinuava ricordi amari. Suonò il campanello. «Annetta», disse, «questo cane è diventato veramente troppo tarlato e polveroso. Portatelo via. Buttatelo». Mentre la carcassa veniva trascinata via, gli occhi di vetro la fissarono con l'umile rimprovero delle cose che si scartano, che si vogliono annullare. Pochi minuti dopo, quel che rimaneva di Bendicò venne buttato in un angolo del cortile che l'immondezzaio visitava ogni giorno. Durante il volo giù dalla finestra la sua forma si ricompose un istante. Si sarebbe potuto vedere danzare nell'aria un quadrupede dai lunghi baffi e l'anteriore destro alzato sembrava imprecare. Poi tutto trovò pace in un mucchietto di polvere livida. Sono Boris Bianchieri e ho presentato il Gattopardo e oggi ne commento con qualche parola la fine della lettura, essendo io stesso nipote di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, l'autore del Gattopardo, che naturalmente conobbi molto bene a suo tempo. Dissi che il Gattopardo è un libro allo stesso tempo storico e individuale. E chi ha ascoltato questa lettura se ne sarà certo reso conto. Ci sono, io credo, due momenti particolarmente rappresentativi della prima e della seconda lettura che si può dare di questo famosissimo romanzo. Il primo, che impersonifica la storia vista come declino di un tempo, come l'avvento di tempi nuovi, ma chissà, forse neanche tanto nuovi, nella piuttosto realistica o forse pessimistica visione del principe di Salina. Ed è quando l'incaricato del re di Sardegna, un gentiluomo piemontese che si chiama Chevalier, un uomo estremamente perbene, viene a proporre al principe di Salina di essere senatore. Il nuovo regno d'Italia ha bisogno di persone eminenti di ogni regione del nuovo Stato, e Salina è certamente un uomo prominente a Palermo e nella Sicilia. Gli viene fatta questa proposta e il principe rifiuta. Rifiuta perché dice: io posso dare la mia adesione, ma non la mia partecipazione. Vede che quello che verrà, o intuisce che quello che verrà, non è quello che lui vorrebbe vedere avvenire. E anzi fa una proposta, direi quasi ironica. Propone che senatore venga fatto quello che era il suo intendente, che si è arricchito a sue spese, che ha fatto fortuna con i soldi della sua casata e la cui figlia sposa adesso il suo nipote prediletto. È naturalmente uno scherzo e Chevalier lo capisce, ma è appunto a questo momento che il principe di Salina dice: ma noi eravamo i leoni, eravamo i gattopardi. Gattopardo è l'emblema dello stemma di quella casata, ed era in effetti anche l'emblema dello stemma della casata dei Tomasi di Lampedusa. Dopo di noi verranno gente di poco conto, sciacalletti. E fra questi sciacalletti è chiaro che lui pensa anche a quello stesso intendente, che pure vuole nominare senatore. Il momento invece, direi, cruciale dell'epopea individuale del principe è quello della sua morte. Una morte che in qualche modo comincia già a trasparire nel ballo al quale lui si reca e dove vede questa società siciliana che già si appresta a far la corte ai nuovi padroni. Ci sono descrizioni straordinarie di quel ballo. Le tante ragazzine incredibilmente olivastre, grassottelle e ciangottanti che affollano la sala, e fra queste passano due belle ragazze come cigni in uno stagno popolato di ranocchie. E poi si avvia il principe e poco dopo, non molto tempo dopo, muore. E l'ultima visione è bellissima. Il principe era stato in gioventù un Don Giovanni impenitente, l'ultima visione è quella di una donna. La più bella, lui pensa, fra tutte quelle che lui ha conosciuto, e infatti quella è la morte. E su questo, e su un cane impagliato che cade giù da una finestra e si trasforma in cenere, si chiude quel bellissimo romanzo. Thank you. Pietro Biondi ha letto Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, edizioni Feltrinelli, postfazione di Boris Biancheri, regia di Anna Antonelli, riduzione di Chiara Nicoletti, coordinamento di Fabiana Carubolante, il terzo anello @rai.it.